Dopo questa singolare risoluzione, sentii una grande calma e mi addormentai, nonostante la tempesta che aumentava di ora in ora. Verso l'alba fui svegliata da uno spaventoso schianto. Una delle gallerie superiori, che il giorno prima stava ancora innalzando i suoi fragili pilastri e le sue eleganti sculture intorno al cortile, aveva appena ceduto alla forza dell'uragano ed era crollata. Una nuova raffica di vento ha provocato la rottura di altre parti dell'edificio, che è crollato anch'esso nel giro di un quarto d'ora. La distruzione sembrava diffondersi sotto l'influenza di una volontà soprannaturale. Si stava avvicinando a me. Il tetto che mi riparava cominciava a tremare, le tegole di muschio si frantumavano e l'intelaiatura della struttura sembrava vacillare e spingere indietro le pareti a ogni nuova raffica della tempesta. Senza dubbio la paura si impadronì di me perché mi lasciai governare da idee superstiziose e infantili. Pensavo che il divino stesse rovesciando il mio eremo per scacciarmi, che stesse rifiutando un voto avventato e mi costringesse a tornare tra gli uomini. Così mi precipitai verso la porta, non tanto per sfuggire al pericolo quanto per obbedire a una volontà suprema. Poi mi fermai mentre lo attraversavo, colpita da un'idea molto più consona all'eccitazione malata e alla disposizione romantica della mia mente. Immaginai che Dio, per abbreviare il mio esilio e premiare la mia coraggiosa risoluzione, mi stesse mandando la morte, ma una morte degna di eroi e sante. Non avevo giurato di morire in questa abbazia? Avevo il diritto di fuggire da essa perché la morte si avvicinava? E quale fine più nobile che seppellire me stessa con le mie sofferenze e le mie speranze sotto queste rovine incaricate di salvarmi da me stessa e di restituirmi a Dio purificata dalla penitenza e dalla preghiera? Ti saluto, ospite sublime, gridai. Poiché il cielo ti ha mandato sì la benvenuta, ti aspetto dietro la soglia di questa cella che è stata la mia tomba in questa vita. Mi sono prostrata sul pavimento e in estasi ho atteso il mio destino. L'ultimo relitto dell'abbazia non sarebbe rimasto in piedi in quella buia mattina. Prima dell'alba il tetto fu spazzato via, un tratto di muro crollato e io persi il senso della mia situazione. Un sacerdote che la tempesta aveva smarrito in queste pianure deserte passò per caso in quel momento ai piedi delle mura diroccate del convento. Dapprima si voltò spaventato, poi gli sembrò di sentire una voce umana tra le voci furiose della tempesta. Si avventurò tra le nuove rovine che coprivano le vecchie e mi trovò svenuta sotto i detriti che stavano per seppellirmi. La pietà e lo zelo che la fede dà a chi manca di umanità gli fecero trovare la forza crudele di salvarmi. Mi portò a cavallo attraverso le pianure, i boschi e le valli. Questo sacerdote si chiamava Magnus. Grazie a lui sono stata salvata dalla morte e mi è stato restituito il dolore. Da quando sono tornata in società, la mia esistenza è più misera di prima. All'inizio mi sembrava che Dio parlasse al mio cuore attraverso le mille voci della natura, che fosse ancora il momento di condividere la vita con un essere come me, dimenticavo, ahimè, che ero un'eccezione maledetta e che questo essere non esisteva. Illuminata dai risultati per me irraggiungibili dell'amore naturale e completo, speravo di salvarmi sottoponendomi solo a metà del suo potere, realizzando le chimere del platonismo. Ma sapendo bene che difficilmente avrei trovato un'anima formata per il mio stesso destino, mi sono circondata di sottigliezze e stratagemmi il cui mistero nessun occhio umano è mai riuscito a penetrare. Mi sono isolata nel mio godimento egoistico e segreto. Ho rifiutato di far partecipare l'oggetto del mio strano amore alle delizie e ai piaceri del mio pensiero. Non conosceva l'affetto con cui lo amavo. Si considerava mio amico e nulla più, si consolava con il dolore di essere solo questo, ritenendomi incapace di passione per qualsiasi uomo, ma io, avara della mia felicità, mi ripromisi di assaporarla con delizia, di avere solo Dio come confidente, di abbandonarmi a tutta la violenza della passione interiore, mentre avrei conservato con cura la fiamma nascosta sotto l'apparenza innocente di una pacifica e santa amicizia. Anzi, all'inizio ero contenta di vederlo felice e tranquillo, che avrei potuto intossicare e sviare con una parola. Quando si è seduto pacificamente al mio fianco, tenendo la mia mano tra le sue e parlandomi del cielo e degli angeli, ho guardato a lungo e intensamente la sua fronte pura e il suo petto calmo. Mi sono detta che, facendo scoccare una scintilla dal mio occhio, dando alle mie dita intrecciate con le sue una pressione più vivace, avrei potuto in quel momento incendiare il suo cervello e far battere il suo cuore. Era dolce sentire questa tentazione femminile e resistere. Amavo la voluttuosa sofferenza che mi derivava da questa lotta segreta, mi ha ringiovanita, mi ha assimilata a esseri affetti da passioni piene e desideri realizzabili. A volte, sul punto di lasciarmi sfuggire il mio segreto, sentivo il calore salire sul viso e appoggiavo la testa sulla sua spalla per riposare da queste agitazioni nascoste ma violente. Poi, turbato nel vedermi così, lui fuggiva spaventato dalle mie braccia. Mi disse: Oh Lelia, Lelia, chi sei? Sei di fuoco o di ghiaccio? Dovresti essere respinta o maltrattata. Tu che parli sempre di forza morale e di ragione trionfante, come mai la forza ti soccombe e la ragione si smarrisce? Ma ahimè, già mi pietrifichi con quel sorriso amaro e freddo che condanna o deride tutte le mie parole, che reprime tutte le mie sensazioni, che respinge tutti i miei desideri. Perché poco fa eri china su di me con uno sguardo ardente, con le labbra socchiuse, con un'indolenza eccitante e crudele. Mi disprezzi così tanto da giocare con me come un bambino. Ti permetti questo abbandono perché dimentichi che sono un uomo? Sei così poco donna da non capire il disturbo e la sofferenza che puoi causare. Quando ho visto che era vicino alla verità, mi sono chiusa in un sistema di indifferenza e leggerezza che ha risvegliato tutti i suoi dubbi. Ho incatenato l'impulso, a volte involontario e ardente, dei suoi sensi con una gelida ironia. Poi ho sollevato il velo dell'amicizia per consolarlo del mio disprezzo. Lo inebriai con dolci e caste carezze, giocai con lui come un avvoltoio con la sua preda. A volte lo facevo soffrire e godevo del suo dolore, a volte lo rendevo felice con piccole concessioni. In ogni cosa e in ogni momento era sotto il mio dominio e gli facevo subire la superiorità della mia abilità senza che lui sapesse a cosa potesse realmente attribuire la freddezza e il calcolo che mi rendevano più forte e più abile di lui. Dubitò e sperò a lungo perché lo desiderava tanto e quando si convinse della mia invulnerabilità si raffreddò. Mi amò come fingevo di voler essere amata, ma come in realtà non volevo. Allora il dolore e la rabbia si risvegliarono in me. La gelosia scavò i suoi chiodi di ferro nel mio cervello. Ero più gelosa del mio amico di quanto lo fossi stata del mio amante. Avrei arrossito di soffrire troppo per un'infedeltà dei sensi, ma ora mi sentivo in diritto di piangere un'infedeltà del cuore. Ma non potevo esprimere il mio dolore senza tradire il mio segreto. Avevo imparato a vincere me stessa. Dopo essere riuscita 100 volte a imporlo a me stessa, mi era molto facile ingannare gli altri per mio conto. Mi sono quindi rassegnata ad amare senza essere corrisposta e ho trovato nelle amare sofferenze di questo amore compresso e sgualcito momenti di più puro entusiasmo e di più dolce rassegnazione rispetto al tempo in cui ero oggetto di un amore ardente ma brutale e indifferente alla mia natura. Ma è invano che l'uomo vuole lottare contro le leggi celesti, rifiutando la sua fronte orgogliosa al giogo che sottomette i suoi simili, entra in una pericolosa libertà. Allontanandosi dalle strade tracciate dalla volontà divina, si smarrisce, si perde. In me, questo disprezzo dei doveri naturali, questa ardente aspirazione a un'esistenza impossibile, ha portato a una sorta di depravazione intellettuale. Non sentendomi legata a nessun uomo da questa espressa e volontaria consacrazione di amore materiale, lasciai che la mia irrequieta e ardente immaginazione vagasse per l'universo e afferrasse tutto ciò che trovava sul suo cammino. Trovare la felicità divenne il mio unico pensiero, e se devo confessare quanto ero scesa al di sotto di me stessa, l'unica regola della mia condotta, l'unico scopo della mia volontà. Dopo aver lasciato fluttuare i miei desideri senza accorgermene verso le ombre che mi passavano intorno, a volte li rincorrevo in sogno, li afferravo al volo e chiedevo loro imperiosamente, se non la felicità, almeno l'emozione di qualche giorno. E poiché questo invisibile libertinaggio dei miei pensieri non poteva sconvolgere l'austerità dei miei costumi, mi ci abbandonai senza rimorsi. Ero infedele nell'immaginazione, non solo all'uomo che amavo, ma ogni giorno mi vedeva infedele a colui che avevo amato il giorno prima. Ben presto un solo amore di questo tipo non bastò a riempire la mia anima, sempre avida e mai sazia, così abbracciai diversi fantasmi contemporaneamente. Amai nello stesso giorno e nella stessa ora il musicista entusiasta che faceva vibrare tutte le mie fibre nervose sotto il suo arco e il filosofo sognatore che mi aveva associata alle sue meditazioni. Amai l'attore che aveva fatto scorrere le mie lacrime, sia il poeta che aveva dettato all'attore le parole che avevano raggiunto il mio cuore. Ho amato anche il pittore e lo scultore di cui ho visto le opere e di cui non avevo visto i tratti. Mi innamorai del suono di una voce, di un capello, di un abito e poi solo di un ritratto, il ritratto di un uomo morto da diversi secoli. E più mi abbandonavo a queste fantasiose ammirazioni, più queste diventavano frequenti, fugaci e vuote. Nessun segno esterno le ha mai tradite, Dio solo lo sa. Ma confesso con vergogna, con terrore, di aver consumato la mia anima in questi frivoli impieghi delle facoltà superiori. Ricordo un grande dispendio di energie morali e non ricordo più i nomi di coloro che, senza saperlo, hanno sprecato nei dettagli il tesoro dei miei affetti. Allora, prodigandomi in questo modo, il mio cuore si spegneva e non ero più capace di nulla se non di entusiasmarmi, e poiché questo sentimento svaniva al minimo scorcio dell'oggetto della mia illusione, dovevo cambiare idolo ogni volta che se ne presentava uno nuovo. E così esisto da allora in poi. Appartengo sempre all'ultimo capriccio che attraversa il mio cervello malato, ma questi capricci, prima così frequenti e impetuosi, sono diventati rari e tiepidi perché anche l'entusiasmo si è raffreddato. E dopo lunghe giornate di sonnolenza e disgusto, trovo talvolta brevi ore di giovinezza e attività. La noia rende desolata la mia vita, Pulcherie. La noia mi sta uccidendo. Per me tutto si consuma, tutto sparisce. Ho visto la vita in tutte le sue fasi, la società in tutti i suoi aspetti, la natura in tutto il suo splendore. Cosa vedrò ora? Quando sono riuscita a riempire l'abisso di un giorno, mi chiedo con terrore come riempirò l'abisso del giorno successivo. A volte mi sembra che ci siano ancora esseri degni di stima e cose capaci di interessare, ma prima di averli esaminati li abbandono per scoraggiamento e stanchezza. Sento che non ho più abbastanza sensibilità per apprezzare le persone, né abbastanza intelligenza per capire le cose. Mi ritiro in me stessa, con una calma e cupa disperazione, e nessuno sa cosa soffro. I bruti di cui è composta la società si chiedono cosa manchi a me, la cui ricchezza ha potuto raggiungere tutti i piaceri, la cui bellezza e il cui lusso hanno potuto soddisfare tutte le ambizioni. Tra tutti questi uomini non ce n'è uno la cui intelligenza sia sufficientemente estesa da capire che è una grande disgrazia non essersi potute attaccare a nulla e non poter desiderare più nulla sulla terra. Quarta parte. 1. Pulcherie rimase a lungo nell'atteggiamento pensoso in cui si trovava dall'inizio del racconto di Lelia. Entrambe rimasero in silenzio e alla fine la cortigiana prese la mano della sorella e le disse: «Credo che solo una cosa possa salvarti, e tornare alla solitudine e alla natura divina. Vedi che ti ho ascoltata seriamente». Oh, non è più tempo, Pulcherie, di seguire la strada che tu mi consigli. La mia fede vacilla, il mio cuore è esausto. Per bruciare di amore divino ci vuole più giovinezza e purezza che per qualsiasi altra nobile passione. Io non ho più la forza di elevare la mia anima a un sentimento perpetuo di adorazione e gratitudine. Il più delle volte penso a Dio solo per accusarlo di ciò che soffro e per rimproverargli la sua durezza. Se a volte lo benedico, è quando passo davanti a un cimitero e penso alla brevità della vita. Oh, hai vissuto troppo in fretta, disse Pulcherie. Devi cambiare il modo in cui eserciti le tue facoltà. Devi tornare alla solitudine o cercare il piacere. Scegli. Vengo dalle montagne di Monteverdor. Ho cercato di ritrovare le mie vecchie estasi e il fascino delle mie pie fantasticherie, ma lì, come ovunque, Ho trovato solo noia. Dovresti essere incatenata a uno stato sociale che ti tenga lontana da te stessa e ti salvi dalle tue stesse riflessioni. Dovresti essere sottomessa a una volontà estranea e il lavoro forzato dovrebbe essere un diversivo all'incessante e mordace lavoro della tua immaginazione. Fatti suora. Oh, tu devi avere un'anima vergine. Io sono casta solo nel corpo. Sarei una moglie adultera di Cristo. E poi si dimentica che non sono devota. Non credo, come le donne di questa regione, nella virtù rigeneratrice dei rosari e nel potere assolutizzante degli scapolari. La loro pietà è qualcosa che le riposa, che le rinfresca e le addormenta. Io ho un'idea troppo grande di Dio e del culto che gli dobbiamo per servirlo meccanicamente, per pregarlo con parole preparate in anticipo e imparate a memoria. La mia religione, troppo appassionata, sarebbe un'eresia. E se mi venisse tolta l'esaltazione, non mi resterebbe più nulla. Ebbene, disse Pulcherie, visto che non puoi farti suora, diventa una cortigiana. Con cosa? Disse Lelia con uno sguardo sconcertato. Ma non ha senso. Oh, verrà da sé, disse Pulcherie sorridendo. Il corpo è un potere meno ribelle della mente, destinato a beneficiare dei beni materiali e anche con mezzi immateriali che può essere governato. Vai, mia povera sognatrice, riconciliati con questa umile porzione del tuo essere. Non disprezzare più la tua bellezza, che tutti gli uomini adorano e che può rifiorire come nei giorni passati. Non vergognarti di chiedere alla materia le gioie che l'intelligenza ti ha negato. L'hai detto tu, sai bene da dove viene il tuo male, è quello di aver voluto separare due poteri che Dio aveva strettamente legato. Ma sorella, disse Lelia, non hai tu fatto lo stesso? No, non l'ho fatto. Ho dato la preferenza all'una senza escludere l'altro. Credi che il cuore rimanga estraneo alle aspirazioni dei sensi? L'amante che abbracciamo non è forse un fratello, un figlio di Dio, che condivide con la sorella i benefici di Dio? Quanto a te, Lelia, che hai tanta poesia al tuo servizio, mi stupisce che tu non trovi 100 modi per sollevare l'argomento e abbellire le impressioni reali. Credo che solo il disprezzo ti fermi e che se tu rinunciassi a questa ingiusta e sciocca disposizione, vivresti come me e chi lo sa, con più energia forse ispireresti passioni più ardenti. Vieni, corriamo insieme sotto questi vicoli bui dove di tanto in tanto vedo scintillare debolmente l'oro dei costumi e svolazzare le piume bianche delle berrette. Quanti uomini giovani e belli, pieni d'amore e di potere, vagano sotto questi alberi in cerca di piacere. Vieni, Lelia, eccitiamoli a inseguirci. Passiamo velocemente accanto a loro. Sfioriamoli con i nostri vestiti, poi fuggiamo, come quelle falene che vedi nel raggio di luce che si cercano, si raggiungono, si separano e si uniscono per cadere morte e folli d'amore nella fiamma che le divora. Vieni, ti dico, guiderò i tuoi passi tremanti, conosco tutti questi uomini, chiamerò i più gentili ed eleganti intorno a te, sarai altezzosa e crudele a tuo agio, Lelia. Ma sentirai le loro parole, sentirai il loro respiro sulle tue spalle, potrai rabbrividire quando il vento della sera porterà alle tue narici dilatate il profumo dei loro capelli. E forse stanotte proverai una leggera curiosità di conoscere l'intera vita. Ahimè, Pulcherie, non la conoscevo io orribilmente. Non ricordi quello che ti ho detto? Amavi quell'uomo con l'anima. Non potevi pensare di provare un vero piacere con lui. È semplice. È necessario che una facoltà, avendo raggiunto il suo massimo sviluppo, soffochi e paralizzi le altre, ma qui sarebbe diverso. La cortigiana condusse via Lelia e continuò a parlarle abbassando la voce. Ma prima, continuò Pulcherie, devi pensare a camuffarti. Senza dubbio non vorrai dare il grande nome di Lelia alla folla, anche se, a dire il vero, la continenza in cui vivi suscita nelle menti degli uomini accuse più gravi delle mie galanterie. Ma forse non trovi che sia al di sotto del tuo destino essere sospettata di passioni misteriose e terribili, mentre disprezzerai la volgare reputazione di Baccante? Vieni dunque. Prendere un domino simile al mio. E potrai, Grazie a certe somiglianze che esistono tra noi e soprattutto tra le nostre voci, scendere senza pericolo dal ruolo maestoso e deplorevole che hai scelto. Vieni, Lelia. La folla che si accalcava sotto il peristilio per ammirare i grandi lampi che attraversavano il cielo separò le due sorelle proprio quando uscivano dal guardaroba, avvolte nelle loro cuffiette di raso blu. Lelia fu trascinata da una marea di maschere, tra le quali c'erano così tanti costumi simili ai suoi, che non osò cercare di riconoscere sua sorella Pulcherie e, timida, spaventata, già disgustata dal ruolo che stava per tentare, sprofondò nei giardini, decisa ad abbandonare ai capricci del caso i resti di un'esistenza continuamente interrotta. Questa volta entrò senza saperlo in una parte dei boschetti che il prudente principe di Bambocì aveva riservato ai suoi prescelti. Era un labirinto di verde, il cui ingresso era sorvegliato da un gruppo dei più esperti subordinati del principe. Erano al corrente di tutti gli intrighi di corte e di ora in ora messaggeri inviati dall'interno del palazzo venivano a modificare le loro istruzioni e a informarli dei nuovi iniziati che potevano ammettere nel santuario. Ogni scomoda gelosia, ogni losco protettore veniva respinto senza appello. Solo le donne potevano entrare senza smascherarsi, tutto in nome della correttezza. Era un campo d'asilo, un luogo di rifugio per amici separati da sfortunati ostacoli esterni. Lì si era al sicuro e tutto accadeva con miracolosa regolarità. La gente camminava in gruppo, si sedeva in cerchio, i vicoli e le stanze verdi erano piene di luci e di persone. Ma i fidanzati sapevano bene per quale sentiero, per quale porta si raggiungeva il padiglione di Afrodite, le cui immense terrazze si estendevano lungo la riva del mare. Non appena Lelia ebbe mosso qualche passo sotto queste ombre pericolose, una voce le sussurrò: «Questa è Zinzolina, la famosa Zinzolina!» Immediatamente un gruppo di uomini dorati e sgargianti si precipitò verso di lei. «Ma come? Zinzolina, non ci riconosci? È così che si dimenticano gli amici fedeli? Vieni, prendi il mio braccio, bella solitaria, e celebriamo di nuovo gli antichi dei!» «No, no!» disse un altro, cercando di afferrare il braccio di Lelia. «Non date retta a questo bastardo piemontese! Venite da me, che sono un napoletano puro e che per primo vi ho iniziata i dolci segreti dell'amore! Non ricordate, Tortorella, dai sospiri voluttuosi, serpente dai caldi abbracci?» Un alto cavaliere spagnolo costrinse il braccio di Lelia sotto il suo. «Sono io il prescelto dalla buona Zinzolina», disse. «Lei è di nobile stirpe andalusa come me e nulla al mondo le farebbe dispiacere un compatriota». «Zinzolina è di tutti i paesi», disse un tedesco. «Me lo ha detto nel suo boudoir a Vienna». «Tedesco», gridò un siciliano, «se Zinzolina dovesse farci l'affronto di preferirvi a noi, ecco un pugnale che ci vendicherà di lei». «Su, su, tiriamo a sorte!» gridò un giovane paggio. «Zinzolina mescolerà i nostri nomi nel mio cappello!» «Il mio nome!» disse il fedele. «È inciso sulla lama della mia spada!» Ed estrasse dal fodero la spada con aria minacciosa. Gli uomini del principe intervenirono e Lelia fuggì.